Zibaldone. Zibaldone, un programma in italiano non solo per italiani. Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Radio Contrabanda 91.4 FM a Barcellona. Zibaldone. Zibaldone. Buon pomeriggio a tutti, bentornati qui sulle frequenze di Radio Contrabanda. Io sono Steven Forti e questo, già lo sapete, è un programma in italiano non solo per italiani, in onda tutti i venerdì pomeriggio dalle 18 alle 20 sulle frequenze di questa storica Radio Libera barcellonese, Contrabanda FM 91.4 sul litorale catalano, in streaming all over the world alla web www.contrabanda.org, e poi ci sono i nostri podcast che potete scaricare dal nostro blog zibaldone.contrabanda.org. Dal 2011, ormai più di 11 anni di podcast di Zibaldone. Oggi 3 giugno, nuova puntata dalle 18 alle 20 qui sulla Plaza Real, un tempo avremmo detto di Barcellona, ormai solo nella capitale catalana. La nostra sede è cambiata di Radio Contrabanda, siamo nel Barriocino, nel Raval, ma va bene lo stesso. 3 giugno, puntata ricca di ospiti, ricca di conversazioni e soprattutto conversazioni in alto mare, ma anche di musica, non solo per gli invitati di quest'oggi, ma anche per l'omaggio che continuiamo a fare a Vangelis dopo quello della settimana scorsa. In questo caso Vangelis e l'Italia è l'omaggio di quest'oggi, le relazioni del grande musicista greco con il nostro paese e con i suoi artisti. Sir! Era il 1968 questo brano in versione italiana, cantato da Dalida, o meglio detta Dalida, Lacrime e Pioggia. Rain and Tears era il titolo originale ed era appunto la canzone, il primo, forse uno dei primi grandi successi della band di Vangelis insieme a Demi Rousseau e Luca Sidera, gli Aphrodite's Child, di cui avevamo parlato ovviamente nella scorsa puntata, nel primo maggio a Vangelis. Però prima di parlare di Vangelis e l'Italia e prima di raccontarvi un po' che cosa abbiamo in serbo per voi in queste due ore di Zibaldone, voglio dare subito il benvenuto al nostro Enrico Banzola, ossia l'ergonomico Banzo, che saluto e abbraccio a distanza. Eccomi qua, buon pomeriggio Steven, buon pomeriggio a tutti. Entro in modo ancora più ergonomico del solito, nuotando nelle lacrime e pioggia mescolate che questa canzone ci ha proposto, però l'arrangiamento mi ha aiutato con la sua dolcezza e con la sua varietà a superare questa difficile prova. Sì, bene. Insomma, è quasi un'olimpionica, quella che hai dovuto attraversare a nuoto. Allora, bando alle ciance, e la canzone, come dicevo, degli Aphrodite's Child, e quindi vedremo in questa puntata versioni italiane di Vangelis, collaborazioni di Vangelis con l'Italia, insomma, tante cose. E ci tengo subito a rimarcare che, insomma, è stato anche un grande lavoro di scavo e di ricerca da parte del nostro Fausto De Salvia, che ci ha aiutato in questa puntata omaggio a Vangelis e l'Italia. Lacrime e pioggia, tra l'altro, il testo italiano è di Vito Pallavicini, e Banzo, usciranno anche poi negli anni successivi altre versioni, per quanto con minore successo, di questa canzone. Perché altra gente aveva sentito l'esigenza di misurarsi nella prova del nuoto in lacrime e pioggia. È sicuramente quella la ragione, Steven. Sì, è sicuramente quella, ma insomma menzioniamone almeno qualcuna, come quella dei Quelli, il complesso da cui poi nascerà la PFM, ma poi anche un giovane a te caro, giovane all'epoca, Franco Battiato, nella sua fase ancora diciamo canzonettistica, registrò una versione di Lacrime e Pioggia, che sarà però pubblicata solo quando Battiato sarà già un'altra cosa e avrà raggiunto il successo. Parliamo dei primi anni 80, in concreto del 1980. 82. Tu la conoscevi la versione di Battiato, Banzo? No, francamente no, però il repertorio di Battiato è talmente vasto probabilmente non basterà, forse la vita basterà, una vita basterà per esplorarlo tutto, però ci sono tante cose ancora da dissotterrare, e soprattutto, come dicevi tu giustamente, nella fase cosiddetta canzonettistica, ecco, il lavoro da fare è ancora forse maggiore rispetto a quello del Battiato classico consacrato a partire dagli anni 70, anche includendo la fase canonicamente sperimentale, perdoni il bisticcio di parole. Andiamo avanti. Al Banzo piace Battiato, ma piace anche molto Sergio Endrigo, e ci andiamo ad ascoltare in questo caso invece proprio gli Aphrodite's Child, con una versione di Lontano dagli occhi, incisa nel 1969, una bella rilettura rock del meraviglioso brano di Sergio Endrigo. Che cos'è? C'è nell'aria qualcosa di freddo che inverno non è. Che cos'è? Questa sera i bambini per strada non giocano più. Non so perché l'allegria degli amici di sempre non mi diverte più. Lontana da me, per un Che cos'è questo amaro sapore che resta di te quando tu sei lontana e non so dove sei, cosa fai, dove vai? Chissà perché non so più immaginare il sorriso che sceglierò gli occhi tuoi quando non sei con me. Una versione davvero potente questa degli Aphrodite's Child, Lontano dagli occhi, è uscita in 45 giri proprio in contemporanea con la presentazione del brano Lontano dagli occhi di Serge Endrigo, che presentò appunto al Festival di Sanremo. Banzo, tra l'altro anche una posso correggerti Steven? Scusa. Correggimi. Io non direi che è una versione potente, ma che è una versione potente. Sì, è bravo. No, beh, è veramente una resa eccezionale, anche perché insomma a me piace Endrigo, come hai sottolineato, ma mi piacciono anche le batterie potenti. C'è un abuso di questo aggettivo, evidentemente, però ecco, questa è una sintesi ideale, nel senso che abbiamo una grandissima canzone di un grandissimo cantautore con un arrangiamento rock che non è pisciato fuori di vaso, se mi permetti, e un drumming veramente, veramente eccezionale. Eh sì, tra l'altro con anche una buona pronuncia, al di là di qualche insomma doppia un po' che salto, che è troppo rafforzata, eccetera, bisogna dire la verità. Le doppie che mancano e le doppie che abbondano invece. Eh sì. Cuore, per esempio, era proprio rimarcata. In ogni caso, bando alle ciance, andiamo avanti perché poi il tempo è tiranno in radio e abbiamo tante cose, abbiamo tanti ospiti. Tra l'altro avremo a brevissimo con noi, dopo la prossima canzone, Riccardo Gatti, che ha scritto un bellissimo libro, un dialogo con Marco Aime, Conversazioni in alto mare, ne parliamo con lui. Riccardo Gatti e lavora da tanti anni nel Mediterraneo salvando vite, lo ha fatto per oltre un lustro con Open Arms, adesso continua a farlo con Medici Senza Frontiere. Poi ritroveremo Berardo Stagliano e i suoi consigli musicali direttamente dal Lussemburgo, e Andrea Manica, che ci presenta il suo nuovo progetto musicale, i Manicas, un alt indie, così viene definito, bolognese, e ci presenterai in anteprima anche alcuni brani. E andiamo però a bomba con un altro brano, prima di parlare con Riccardo Gatti, di Vangelis. All'inizio degli anni 70 Vangelis fu contattato da Claudio Baglioni. È già qui è una storia bellissima. Sì. Non devo aggiungere nient'altro, è meraviglioso. Partiamo col petto. Vai avanti. No, aggiungo solo che per realizzare un musical, infatti la storia è molto bella, dedicato alla figura di Ulisse e al suo viaggio. Vangelis, insomma, non accetta questa cosa, insomma, non va in porto, però sì, accetta invece, o alla fine questo contatto diventa una collaborazione, perché Vangelis arrangia e produce l'album E tu, insomma, di grande successo. adesso di Claudio Baglione e Claudio Baglioni, e da quel disco ci andiamo a sentire una canzone che è Quanta strada da fare, era il 1974, Claudio Baglioni, arrangiamento di Vangelis, sentitevela qui. Faccia riflessa sul vetro, ogni cosa sparisce succhiata all'indietro. Tutto quanto si è fatto sbiadito ed il campo diventa un immenso tappeto. La mia borsa di corda mi fa da cuscino, non posso dormire nemmeno. Una striscia d'asfalto che corre vicino e insegue noiosa il mio treno. Ed il sole più rosso laggiù all'orizzonte, dall'ultimo addio lentamente. Un mucchietto di case aggrappate ad un monte mi sembrano come dipinte. E un pupazzo di paglia sperduto tra il grano non ha per compagno nessuno. La mia mente si perde lontano, mi sento più libero sopra il mio treno. Quanta pioggia ho veduto cadere leggera, quante volte ho sognato sui ponti la sera, quanta polvere, quante città, quanta vita ho lasciato qua e là, quanta strada da fare però, quanta strada. Ancora non lo so. Ora abbiamo in collegamento con noi Riccardo Gatti per parlarci di un libro di cui è coautore, ma è anche in fin dei conti protagonista. Conversazioni in alto mare, uscito lo scorso mese di ottobre per i tipi di Eleutera, casa editrice milanese che fa sempre delle bellissime cose. E insieme a Riccardo Gatti in queste conversazioni in alto mare c'è anche Marco Aime. Innanzitutto do il benvenuto a Riccardo, è un piacere averlo con noi in trasmissione quest'oggi. Riccardo, spero che tu stia bene. Sì, grazie mille, grazie per l'invito, Steven, buonasera a tutti. Sto bene. Bene, bene. E Riccardo Gatti fa tantissime cose, sicuramente molti degli ascoltatori sapete chi è, ma praticamente durante 5 anni, tra il 2016 e lo scorso anno, il 2021, ha operato nel Mediterraneo centrale sulle navi della ONG spagnola Open Arms, come comandante prima, poi come capo missione, ha ricoperto anche il ruolo di presidente di Open Arms Italia, anni tra l'altro che sappiamo bene sono stati particolarmente complicati e complessi da questo punto di vista per quanto riguarda il soccorso nel Mediterraneo, la cosiddetta crisi dei rifugiati, l'auge delle estreme destre, il governo Salvini Di Maio, i taxi del mare, se vi ricordate, insomma tutte queste questioni sono passate proprio in questi 5 anni in cui tu, Riccardo, sei stato insomma hai lavorato ricoprendo diversi ruoli con Open Arms nel Mediterraneo centrale. E dallo scorso anno, dal 2021, invece continui sempre a lavorare nel Mediterraneo centrale salvando persone, salvando vite con Medici Senza Frontiere. Sì, esatto, praticamente diciamo che per fortuna e per sfortuna, vedendo anche diciamo in sé il tipo di lavoro che faccio, perciò aiutare persone bisognose, per quello dico per fortuna e per sfortuna, mi dedico a ciò proprio anche prima, dal 2015 ancora con Medici Senza Frontiere in Grecia, e questi anni la fortuna personalmente e professionalmente di aver imparato un bel lavoro e aver contatto con bellissime persone, non solo soccorritrici ma spesso e volentieri persone soccorse, e poi però la sfortuna di vedere che purtroppo è un lavoro dentro sempre in una situazione molto, molto di crisi, non tanto una crisi migratoria, ma una crisi di di perdita di vite umane e di rischio di perdita di vite umane. Guarda, partirei subito dall'attualità, dal presente. So che in questi giorni sei a Palma di Mallorca, ma sei in procinto di partire e di imbarcarti di nuovo per appunto con, in questo caso, Medici Senza Frontiere per il Mediterraneo centrale. E partirei da qui. Qual è la situazione di questi ultimi mesi? Perché tra la pandemia, crisi geopolitiche come l'Ucraina, eccetera, diciamo, si sta parlando meno, al di là di quando c'è una nuova tragedia, di quello che succede nel Mediterraneo. Quindi mi piacerebbe che ci facessi un po' il punto della situazione. Sì, il punto della situazione non è solo retorica, ma la realtà continua a essere veramente di crisi. Di settimana scorsa numeri di decine di morti in mare, almeno a conoscenza almeno 76 morti in mare, meno di una settimana fa. Continuano gli sbarchi autonomi in Italia, continuano i soccorsi, perciò diciamo che ecco, in questi anni sono cambiate le dinamiche di accettazione o no, sono cambiate gli atteggiamenti dei vari governi. Quello che non è cambiato è veramente quello che vediamo nel Mar Mediterraneo. Le persone continuano a partire, continuano a morire, purtroppo sì che almeno da quasi due anni a questa parte direi che o forse un pochino più, diciamo, è andato scemando proprio l'attenzione mediatica su ciò che sta succedendo nel Mediterraneo centrale, con la conseguenza quasi consapevolezza o coscienza di che non sta succedendo niente da parte della società civile o da parte della popolazione, cosa che invece non è così. Le persone continuano a partire, continuano a morire purtroppo. Parlavi dei governi, ecco, nel vostro libro, nella conversazione con Marco Aime, che appunto è raccolta in questo libro pubblicato da Eleutera, insomma, parlate di tante cose, a partire dalla tua esperienza ormai di diversi anni nel Mediterraneo centrale con Open Arms e Medici Senza Frontiere, ecco, ma il tema dei governi è un tema importante, perché proprio negli anni in cui tu hai cominciato ad operare, proprio nel 2015, ecco, da quel momento le cose sono progressivamente cambiate, insomma, in modo molto chiaro, no? In diversi paesi e poi soprattutto ovviamente in Italia. Sì, esatto. Quello che è successo purtroppo è qualcosa che quasi sfugge da ogni logica, no? Nel senso, nel 2015, 14, 2016 e fino al 2017 l'atteggiamento dei governi era indirettamente o anche direttamente di appoggio al soccorso in mare. C'è da ricordare l'operazione Mare Nostrum del governo italiano e poi dopo il coordinamento diretto della Guardia Costiera italiana, coinvolgendo tutte le ONG, coordinandole nel soccorso in mare. E anche l'atteggiamento, appunto, il sentimento popolare era di appoggio non solo al soccorso in mare, ma anche a un certo aiuto di persone che appunto arrivavano dopo naufragi o comunque soccorsi in mare. Bene, da allora fino adesso quello che dicevo, che praticamente sfugge da ogni logica, è che un sistema di soccorso in mare funzionante, coordinato a quell'allora dalla Guardia Costiera italiana in cui venivano coinvolte le ONG, è stato via via distrutto. C'è stata totalmente un'implosione, una retrocessione fisica delle navi della Guardia Costiera italiana, per esempio, o fino addirittura allo scomparire dal Mar Mediterraneo centrale, e via via a livello inversamente proporzionale un aumento della criminalizzazione in un discorso criminogeno verso le persone migranti o in movimento e verso e contro le ONG, e nello stesso modo un aumento di una creazione di un sistema di intercettazione in mare, di respingimento, e un aumento di appunto di soldi spesi per creare questa struttura di respingimento in Libia in mano alla Guardia Costiera libica, no? Perciò abbiamo visto un cambio in negativo, un disgregarsi, un distruggersi che è stato via via nel tempo continuo e che continua giorno d'oggi, fino ad arrivare a giorno d'oggi in una situazione che appunto le ONG soccorrono in mare solo e semplicemente grazie alla pura solidarietà tra le diverse ONG. e tra l'altro anche rischiando spesso grosso dal punto di vista anche di insomma finire in tribunale o rischiare appunto che le imbarcazioni vengano sequestrate, si rischiano multe, insomma voglio dire, spiegaci tu meglio qual è la situazione attualmente, perché le cose sono cambiate, cambieranno ancora, ci sono differenze da paese a paese, però insomma rischiate molto da questo punto di vista. Ma quello che abbiamo visto è che appunto proprio nel bel mezzo di appena dopo iniziato tutta questa criminalizzazione dell'ONG sono iniziate o sono state aperte diverse indagini verso o a carico delle ONG. Moltissime indagini sono state archiviate, continuano ad essere archiviate non solo, solo a carico delle ONG, ma proprio anche dei difensori dei diritti umani. Dobbiamo ricordare settimana scorsa l'assoluzione di Andrea Costa, del Baobab o di Don Moussa Zerai, anche lui dopo 5 anni di indagini, no? Quello che abbiamo visto è stato un continuo aprirsi di indagini. Mi sfugge il numero di quante indagini sono state aperte, però la maggioranza sono a giorno d'oggi archiviate. Non ci sono a giorno d'oggi state sentenze incriminatorie di persone o di ONG in sé. Ci sono alcune indagini ancora aperte, basta ricordare non le indagini ma anche il processo aperto ai danni di diverse organizzazioni, tra cui anche Medici Senza Frontiere, Juventa e Save the Children a Trapani per il caso Juventa. Ma quello che abbiamo visto è che è quello che sappiamo sinceramente e che ci si aspetta, che tutte le indagini e tutte le accuse cadranno, perché si basano su un discorso criminogeno, si basano su dati, o non dati, ma meglio dire su interpretazione della realtà falsata, spesso e volentieri, anche sottostante a questa ondata di criminalizzazione. Però nel fulcro delle prove non esiste altro che il continuo ripetersi, il continuo presentarsi appunto dei fatti reali. I fatti reali sono che le ONG, quello che stanno facendo è l'obbligo, è sottostà un obbligo normativo, e che non vi è nessun'altra connessione né con trafficanti né quant'altro. Certo, no? Sì, abbiamo visto che negli anni appunto anche chiamiamoli così, queste azioni o questi attacchi a livello giudiziario sono andati via scemando, adesso non vengono più aperte indagini. Si è passato a un'altra fase che adesso sembra che si sia un po' placata, una fase di blocchi amministrativi, perciò navi bloccate con pretesti amministrativi riguardo a supposte deficienze a livello strutturale o a livello di strumenti o a livello di preparazione del personale delle navi dell'ONG, sottostanti al controllo della sicurezza della navigazione, no? Che sono state cose anche lì un po' sorprendenti, in quanto si riteneva navi meglio equipaggiate, con equipaggi meglio con più esperienza e meglio preparati rispetto a quelle del 2015, non più capaci di far soccorso. Sì, sì, l'abbiamo visto mettere in atto in maniera sistematica. Il giorno d'oggi sembra che poi si stia un po' calmando la situazione, ma ci aspettiamo altri passi, altre azioni che sono chiaramente, ed è stato documentato proprio a livello temporale, quanto sono discriminatori verso le navi dell'ONG. C'è da, non per ultimo, ricordare anche le varie quarantene dovute al Covid, alla situazione del Covid, che spesso e volentieri abbiamo visto sistematicamente imposte alle navi di ONG senza avere base sanitaria, nel senso senza avere presenza di né persone soccorse né dentro l'equipaggio di persone contagiate, e tra l'altro spesso e volentieri anche non seguendo i dettami dei decreti ministeriali, no? Perciò abbiamo visto, siamo mai abituati a vedere discriminazioni che sono illegittime sicuramente, spesso e volentieri anche illegali. Insomma, l'immagine delle persone come te che avete soccorso, insomma, le varie ONG, tante vite, avete salvato tante vite nel Mediterraneo in questi anni, insomma, passati dall'essere considerati gli angeli del mare, no, ai trafficanti di esseri umani, gli amici degli scafisti, soprattutto dagli anni, insomma, ricordiamo dal 2017 in avanti, il governo Salvini Di Maio, Lega e 5 Stelle che hanno, insomma, fatto la campagna elettorale su queste cose, no, e su fake news. news e ovviamente menzogne. Ma quello che ti volevo domandare, perché so che nel libro anche con Marco Aime ne parlate e nelle conferenze, nelle presentazioni del libro che hai dato recentemente in giro per l'Italia, ma anche qui recente, pochi giorni fa qui a Barcellona, ecco, qual è la percezione invece delle persone? Voglio dire, se l'immagine da angeli del mare a trafficanti, supposti trafficanti di esseri umani, è quella di alcune elite politiche, no? Di alcuni politicanti che fanno demagogia, invece tra la gente è cambiato qualcosa? Non è cambiato? Questa narrativa, queste fake news, diciamo, sono penetrate? Qual è la percezione che hai tu al riguardo? Sì, io purtroppo devo dire che il lavoro certosino di discorso criminogeno e di creazione di una nuova narrazione della realtà ha proprio veramente intriso gran fetta della popolazione, tant'è che persone che con cui magari io ho cresciuto, ho passato l'adolescenza e quant'altro, che erano decenni magari che non ci si sentiva, più che magari in Facebook dirci auguri, buon compleanno, sono passate di punto in bianco qualche tempo fa anche ad insultarmi appunto in rete, no? E quello che ho visto è proprio quello, un cambio di percezione, perciò anche di atteggiamento verso noi delle ONG, no? Nel senso, proprio benissimo come dicevi te, proprio passare da chi ti rivedeva e ti pensava come un angelo del mare, che è cosa che non siamo neanche, a persone comunque non solo a cui bisogna sospettare, ma a cui si può far ricadere addosso ogni violenza verbale, e spesso volentieri si è arrivati quasi anche a fisica, no? Nel senso, proprio molta rabbia verso di noi, ma rispecchia veramente un discorso che ha creato, diciamo, quell'associazione migrante o persona in movimento con criminale, no? E con tutto ciò che ne viene intorno, in una conferenza a Napoli, la settimana scorsa, proprio mentre parlavamo di ciò, io ho chiesto alle studentesse, agli studenti, ho detto, ma voi percepite anche voi questa percezione, questa realtà che io sto descrivendo, no? Era all'Università L'Orientale di Napoli nel corso di lingua e culture orientali e culture arabe, no? E una ragazza mi ha detto, guarda, sì, perché per esempio, mi ha fatto un esempio, una cosa che tra l'altro mi ha molto lasciato abbastanza di stucco, e mi ha raccontato come spesso e volentieri quando le persone chiedono cosa studi, lei dice, beh, io studio lingue e culture arabe, prima di tutto questo periodo di criminalizzazione c'era interesse per cercare di capire cosa realmente fosse, però era un interesse sano. Mi ha detto che ultimamente gli è successo di una persona che gli ha detto, allora tu nel futuro, quando finisci la laurea, lavorerai in questura a tradurre per le persone migranti che vengono arrestate, no? Che è una cosa che mi ha sorpreso molto, però rappresenta un po' quello che è successo, che è qualcosa che nel libro con Marco ragioniamo e poi tra l'altro ci lamentiamo e ci appeniamo di ciò, che è il fatto che fondamentalmente tutto questo discorso di creare un'altra persona, l'altro come persona di cui non fidarsi, persona criminalizzata e quant'altro, cui riversare l'odio, fa male a tutti, non fa male solo a noi delle ONG, alle persone migranti, ma fa male proprio a tutti, perché distrugge proprio il vivere tranquillo, no? Immaginati tu essere una persona che veramente crede che siamo sottostanti a un'invasione, a un cambio culturale, e che tra l'altro c'è tutto un sistema montato mafioso di cui fa sì che la migrazione venga strumentalmente utilizzata per arrivare a qualche fine, come c'è stato anche detto, per esempio, di sostituzione etnica. Vuol dire che ti svegli la mattina e tutto il giorno è come che vivi proprio sotto tensione, sotto rabbia e quant'altro, ed è un detrimento, una distruzione, un impoverimento del giorno dopo giorno di persone che alla fine sono anche loro vittime di potenziali e strumentali interessi politici, io credo. Assolutamente. E nel libro ci sono tante cose, ovviamente non abbiamo né il tempo né sarebbe giusto trattarle tutte qui, e quindi invito i nostri ascoltatori a cercarsi questo libro, Conversazioni in alto mare, Riccardo Gatti, Marco Aime. Però sì, c'è una questione che mi piacerebbe, di cui piacerebbe parlarne con te, che è il rapporto che voi come soccorritori avete con le persone che salvate nel mare, nel Mediterraneo. Ecco, una questione di cui spesso io credo è difficile saperne qualcosa, di cui non si parla, men che meno nei mezzi mainstream, e tu ovviamente che hai vissuto sulla tua pelle e che vivi tuttora. Ecco, questo io credo che sia una questione davvero interessante. Sì, noi è una cosa che, guarda, nella conseguenza negativa degli vari stand-off, perciò i prolungamenti di attesa in mare prima di ricevere un porto di sbarco che dovrebbe essere dato il prima possibile, con delle tensioni di grande tensione, immagino, a volte situazioni di grande tensione e di veramente di aumento di sofferenza per le persone che abbiamo a bordo, che appunto possiamo immaginarsi non solo spesso e volentieri conseguenti che vengono soccorse in reali situazioni di naufragi, ma anche che poi vengono con già previe sofferenze per tutto il viaggio che hanno attraversato in Africa e poi evidentemente le torture e le violenze in Libia. Bene, l'unica cosa che posso dire positivo è avere anche più tempo o avere la possibilità materiale di passare più tempo con loro. E allora è una cosa molto interessante, perché sai, c'è più contatto umano, no? Perché alla fine purtroppo in questa attesa siamo tutti sulla stessa barca, c'è più contatto umano, c'è più conoscenza, si inizia realmente a riconoscerci per nome giorno dopo giorno, sempre nella speranza che il porto venga dato il prima possibile, e ci si rende conto, ed è una bella cosa, no? Perché mi ricorda sempre una frase di Chef Rubio, che era stato una volta a bordo con me per un piccolo periodo, proprio nei momenti in cui poi portarono l'accusa ai danni dell'ex ministro degli interni italiano Salvini di sequestro di persona, sì, per non sì, dare sì. Porto. Mi ricordo che a una conferenza stampa un giornalista richiese: ma raccontami, cosa hai visto tu a bordo? Chi sono queste persone? E lui disse una frase che per me è talmente chiara quanto lapidaria: è loro siamo noi, però con più problemi, no? Ed è così. Ci si rende conto di quello, no? Ci si rende conto di quello, che sono persone che siamo noi. Siamo noi senza più problemi, però con molti più problemi, a cui evidentemente una società degna, proprio del nome di società degna, dovrebbe averne cura, cosa che non sta succedendo. Mm-hmm. E purtroppo poi evidentemente, senza entrare in particolari, possiamo realmente, io in questi anni realmente e veramente ho visto di tutto, persone a cui avevano sparato, persone che poi sono morte per le gravi violenze sessuali che hanno sofferto, persone torturate, persone totalmente in shock e in distress psicologico, che gli stessi psicologi e psicologhe dicevano che c'era un grave rischio di conseguenze permanenti, persone realmente che poi ti raccontano chiaramente che il sistema di intercettazione in mare è messo in atto ripetutamente, non solo in Libia, ma poi anche in Libia dall'Unione Europea, è qualcosa che continua a essere fallimentare, perché ti dico, io questo, la fuga dalla Libia l'ho cercata 3 volte, le stesse persone che mi hanno messo sul gommone sono le stesse persone che mi intercettano e mi riportano nei centri di detenzione, sono le stesse persone che mi torturano per prendere ancora dei soldi che mi manda magari la mia comunità. Perciò c'è il mondo sulle navi dei soccorsi. C'è il mondo, da una parte noi soccorritori, in questa spesso visione che io non condivido, no? Però che realmente aiuta anche a ragionare, no? In questa visione di eroicità a cui ci viene buttata addosso, è successo a volte, no? L'eroe, che siamo eroi e che non lo siamo. E c'è il mondo anche appunto nelle persone soccorse, ed è alla fine ci sono sempre dei feedback realmente positivi che ci aiutano ad andare avanti, no? Questo vedere come sono realmente le persone eroiche, sono loro, no? Hanno una forza tremenda, e sembra, adesso dirlo così, sembra veramente, sono discorsi così retorici, ma non è così, no? E questo. Un'ultimissima cosa al volo, Riccardo. Il libro è uscito ad ottobre, settembre-ottobre dell'anno scorso, no? Del 2021. Ecco, negli ultimi mesi sono successe tante cose, soprattutto per quanto riguarda, diciamo, l'Europa orientale, con la guerra in Ucraina. Ecco, mi piacerebbe sapere qual è la tua percezione, visto la diversa percezione delle stesse persone, della cittadinanza europea, delle elite politiche, dell'Unione Europea, dei governi italiano, spagnolo, di altri paesi, insomma, per quanto riguarda i rifugiati e che provengono appunto dall'est dell'Europa, quindi dall'Ucraina invasa dalla Russia di Putin, rispetto a quello che sta succedendo, che è successo negli ultimi anni nel Mediterraneo centrale, dove tu sei stato, insomma, presente durante tutti questi anni. Ecco, che effetto ti ha fatto vedere questi due pesi, due misure, per così dire, no? Guarda, io credo che questa situazione riguardo alla giusta, corretta e funzionale accoglienza delle persone che vengono, appunto, fuggono dalla guerra in Ucraina, rappresenta la potenza e la possibilità di poterlo fare, no? Rappresenta cosa bisogna fare e si fa vedere che si può fare, no? D'altra parte c'è questa ipocrisia invece del maltrattamento sistematico messo in atto dagli stessi governi verso altri tipi di persone, che sono fondamentalmente persone che vengono dall'Oriente, dal Medio Oriente o dall'Africa. Ed è una cosa realmente che dovrebbe farci pensare, perché ci rappresenta proprio che è possibile farlo. È facilmente attuabile, si può fare, si sta facendo, però ci deve far riflettere, perché rappresenta realmente la reale faccia razzista dell'Unione Europea, no? Razzista e che strumentalmente continua a usare la migrazione come strumento di calcoli politici e di accordi o quant'altro, no? Io credo che da una parte i miei sentimenti sono contrapposti, perché dico c'è sempre quel punto di speranza di dire cacchio, un giorno o l'altro dovrà cambiare questa situazione, e dall'altra crea in me rabbia nel vedere come spudoratamente questa Unione Europea mette in atto non solo una discriminazione, ma proprio un disprezzo della vita umana, se questa vita umana è negra o potenzialmente musulmana o quant'altro, no? Perciò è quello che io sto vedendo. Sì. Conversazioni in alto mare, Riccardo Gatti che ci ha accompagnato quest'oggi qui a Zibaldone insieme a Marco Aime, libro uscito qualche mese fa per Eleutera, vi consiglio davvero di cercarlo perché vi aprirà gli occhi su una questione di cui sappiamo ancora troppo poco. Riccardo, ti ringrazio davvero moltissimo di aver trovato il tempo per essere con noi e ti faccio un grosso in bocca al lupo per le nuove missioni che ti portano tra pochi giorni una volta ancora nel mezzo del Mediterraneo. Grazie mille Steven e grazie a tutti ascoltatori e ascoltatrici. Un abbraccio. Nonostante tutto, thank you. Nonostante tutto, parte seconda, questo è Riccardo Cocciante dal famoso concerto per Margherita del 1976, un brano banzo che mandiamo in onda perché anche in questo caso il disco di Cocciante, Concerto per Margherita, è stato prodotto ed arrangiato da Vangelis. Ecco, è tutto molto bello, Steven, perché nella scorsa puntata sostanzialmente trovavamo jingle, cioè colonne sonore di pubblicità, anche dove del TG della Rai non immaginavamo minimamente di poterle trovare, mentre stavolta stiamo trovando collaborazioni di Vangelis le più impensate. Poi diciamo che probabilmente chi conosce bene, soprattutto gli italiani che conoscono bene la carriera del musicista greco, non saranno esattamente sorpresi, però sono comunque tutte collaborazioni che sono fuori dallo spettro del Vangelis più noto. Ecco, va molto l'immagine dell'iceberg su internet, no? Eh sì. Per spiegare molti fenomeni, ecco, qui saremmo già abbastanza a livello di sommerso, nonostante queste siano collaborazioni che sono state fatte anche col proposito non di essere carbonare, ecco, di circolare quanto più possibile, perché erano artisti di grande popolarità e diffusione. Comunque, un commento brevissimo: bello il pezzo di Cocciante. Sì. È bello il pezzo di Cocciante. È potente, direi. È la parola del giorno, è potente, esatto. Cocciante che peraltro non canta, va di fonemi, di nananà, tutta la canzone. Un arrangiamento inizialmente, ecco, più simile a quello che mi posso aspettare stereotipicamente da Cocciante, poi c'è un crescendo potente. Sì, invece sì. È molto inatteso, un'altra volta potente, era inatteso l'arrangiamento di Baglioni. Sì, non perché non me lo aspettassi da Vangelis, ma perché, ecco, questo veramente non rientra nell'immagine che abbiamo tradizionalmente di Claudio Baglioni come cantante di protesta, no, cantante romantico evidentemente. Comunque in lo stesso 1976 in cui Cocciante insomma faceva un grande successo con Margherita, brano ovviamente contenuto nel disco di cui stavamo parlando, Vangelis collaborava anche come arrangiatore e produttore di un altro disco in Italia, di un'altra cantante famosa in quegli anni in Italia. Non vi dico chi è, il brano non era suo. Lo conoscerete sicuramente e sicuramente riconoscerete anche la sua voce. Io ti venderei. Che pezzone, che pezzo Banzo, che pezzo questo Boh, Mogol Battisti dannata. Tra l'altro l'ultimo brano Io ti venderei, scritto da Mogol e Battisti per un'altra interprete che era ovviamente Patti Pravo. 1976, tanto il disco in cui era contenuta questa canzone interpretata da Patti Pravo, un disco, come dicevamo, arrangiato e prodotto anche in questo caso da Vangelis. Esatto, ricapitoliamo, brano di Mogol Battisti cantato da Patti Pravo, arrangiato da Vangelis. Sono veramente delle triangolazioni che sono esistite, però ecco, così superficialmente, quelle cose parlando di musica, di ma sai che una volta hanno fatto questa collaborazione? Ma no, non ci credo. Ma tra l'altro, quindi, dimmi. Volevo anche approfittarne, l'abbiamo già fatto, però volevo ancora ringraziare Fausto per il lavoro archivistico veramente eccezionale. Bravo Fausto. E voliamo subito al seguente brano, dove in questo caso invece non collabora, voglio dire, non produce una canzone, un disco per artisti italiani, ma nel 1980 Vangelis, nel suo disco See You Later, include un brano che si intitola Suffocation, che è ispirato al disastro di Seveso del 76, cantato anche da Venditti, se vi ricordate, in quegli anni. Una canzone che in cui però partecipa alla voce due artisti italiani che sono Maurizio Arcieri e Cristina Moser dei Crisma, sì, prodotti all'epoca, tra l'altro, giusto per gli incroci, dal fratello di Vangelis, Nikos Papathanasiou, e c'è anche John Anderson, che in quegli anni stava iniziando a collaborare proprio con Vangelis. Andiamo ad ascoltarci questa Suffocation, 1980, Vangelis la dedica al disastro di Seveso. We'll be right back. Beh, le sonorità sono cambiate, era il 1980 per questa Suffocation di Vangelis, ovviamente, che stiamo omaggiando quest'oggi, soprattutto nella sua relazione di distinto tipo, di diverso tipo con l'Italia, Banzo. Beh, io qui emerge il vecchio cuore metallaro, io leggo Suffocation e penso al grandissimo gruppo death metal americano, quindi sarebbe bello credere che in un universo parallelo, perché in questo universo so che non è così, esistesse una canzone dei Suffocation che si intitola Vangelis, però penso che il loro stile fosse più Pierce from Within, Thrones of Blood e cose così, cioè death metal trucido, e vabbè, comunque lo cercheremo. Lo cercheremo. Noi andiamo a bomba perché già ci sta aspettando Banzo, il nostro prossimo ospite, Andrea Manica. Andiamo ad ascoltarci subito una canzone dal nuovo disco dei Manicas. Allora adesso ci spiegherà lui di che si tratta. E ci siamo noi. Partiamo in quarta solo se dai il vai, che facciamo le cose senza pensare mai, che compriamo le rose anche se non vuoi, che compriamo le rose solo se la dai, siamo perdenti da sempre mica come voi, che viaggiate a Santiago, Cile e Paraguay, ma alla fine del mese i soldi non li hai. Alla fine del mese, ma Walter sta aspettando i soldi che non ho. Devo comprare birra, sesso, droga e rock and roll. Ma tu mi stai aspettando e sono ancora qua. Poi ci sono io, che son rotto da sempre con quel fischiettio, che mi ronzola in mente uno scricchiolio, dai frantumi importanti sono in un cameo di una vita di stenti, ma Walter sta aspettando i soldi che non ho. Tu puoi cenare tanto, io resto. questa è Lilium, il primo brano che vi proponiamo dei Manicas, band alt indie bolognese. Tra poco uscirà il loro primo disco posh punk alla metà di questo mese di giugno. Questo è il primo singolo che è uscito, ne parliamo insieme ad Andrea Manica, vocalist e chitarrista dei Manicas. Andrea, benvenuto, anzi bentornato a Zibaldone. Ciao Steven, è veramente bello ritornare a Radio Zibaldone e insomma mi sento un po' a Barcellona anche io, è iniziato Primavera Sound anche. Esattamente, esattamente, fine quindi, settimana del primavera. È un po' come sentirsi a Barcellona, sono a Bologna ma è un po' come essere lì. Sono contento di tornare a raccontare dei progetti nuovi sempre da te, che il tuo programma lo seguo su Radio Contrabanda ed è molto, sempre molto bello e stimolante. Bene, ti ringraziamo, siamo molto contenti di questo e siamo contenti soprattutto di averti con noi. I nostri ascoltatori già ti avevano conosciuto per altri progetti, dalla palestra del cantautore, no? E poi anche progetti prettamente musicali, no? 3 anni fa era uscito un EP, La faccia degli dèi, 2 anni fa esatto, un singolo, La stella danzante. Ora insomma esce tutto un intero disco, uscirà ufficialmente tra un paio di settimane, noi ne parliamo in anteprima, ascolteremo anche alcuni altri brani ancora inediti, diciamo, ancora non conosciuti dal pubblico, però è un progetto questo dei Manicas un po' diverso dalle cose che ci avevi presentato in passato. Sì, diciamo che io sono partito con tantissime idee, parole come cantautore, un percorso da cantautore che ho portato avanti per tanti anni, però poi in questa pandemia, pre-pandemia, appena pre-pandemia, ho incontrato un gruppo e quindi ora faccio il portavoce proprio di un gruppo di 3 elementi, quindi si sono aggiunte delle menti a lavorare sul progetto, con ovviamente ognuno la sua personalità, e questo legame ha portato alla crescita delle canzoni. Diciamo che il legame con il cantautorato nella musica, anche nella canzone che abbiamo sentito, sicuramente è rimasta, però è stata miscelata comunque con tante altre influenze, comunque con l'indie, con il rock, con le chitarre più acide, e ci siamo diciamo divisi il lavoro anche in una forma differente, quindi con chi lavora al testo, chi suona, chi pensa più alla musica, però lavorando tutti insieme nella stessa direzione. Insomma è un gruppo di amici, quindi è la cosa più bella da presentare, cioè che... ci credo. Francesco Pop-up al basso, Riccardo Tomba alla batteria, e poi appunto ci sei tu, come dicevo, voce chitarra. Ascolta, partirei dal primo brano che ci siamo ascoltati, Lilium, insomma ci riporta un po' a Bologna, direi. Esatto, perché Lilium è il mondo dei bar. Esattamente, esatto, Lilium è proprio un bar, non so. Non so se sei mai stato, Steven, sì. È in Borgo di San Pietro, è un bar veramente rosso bolognese, con il barista burbero, quindi di certo non accomodante, però che è il legame della città. Noi abbiamo pensato anche al bar, visto che comunque per noi il bar è un punto anche di incontro, dove stare vicini, anche in un periodo in cui le divisioni sono state tante, e ancora lo sono, quello che è mancato sono stati i punti d'incontro, quindi raccontare proprio un bar e anche chi in queste situazioni c'è rimasto, anche con i disagi. Nella canzone dice che c'è chi va in Paraguay, chi viaggia, noi rimaniamo comunque legati alla nostra realtà e alle persone comunque che a volte questa possibilità non hanno, quindi è anche un po' un discorso che vuole divertire in questo inno un po' ubriaco, ma anche un attimo portare a far riflettere, insomma, sulla situazione che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo. Sì. Da questo punto di vista è anche interessante il titolo del disco, perché al di là poi di suonare bene, no? Posh punk, ecco, in realtà lì insomma mettete insieme due concetti, perché insomma vi state un po' interrogando in forma anche ironica con questo disco su delle categorie umane che erano rappresentative di qualche decennio fa e che forse adesso insomma come quella del punk non risponde più alla realtà attuale. Certo. Noi per primi, perché alle volte insomma le cose ti succedono intorno e come dico, Bologna ha degli anticorpi anche resistenti comunque, ma le cose succedono, cioè XM è appena stato sgomberato come probabilmente gli ascoltatori molti sapranno e noi insomma non abbiamo di certo l'energia collettiva di fare tutto quello che a volte servirebbe, quindi un po' posh tutto sommato lo siamo anche noi, e è un po' anche una comodità secondo me collettiva che ci tiene tutti in questa situazione. Ovviamente è anche una scelta di ironia e di stile, perché comunque unire la musica punk e cantarla come era uguale 40 anni fa, così come il cantautorato, riportarlo a un, cioè bisogna comunque aggiornarlo sui tempi secondo me, e quindi questa è un po' la nostra scelta ironica, ed è nato questo titolo un po' beffardo come un po' tutto l'album, è fatto un po' di situazioni beffarde. Ma nel comunicato stampa scrivete anche, tra l'altro, no? Sì. Parlando degli anni 90, una stagione di militanza politica ormai passata, qui sono assolutamente d'accordo con te, che dici che appartiene alla memoria collettiva, ecco, insomma, ma la militanza politica dici che sia una cosa ormai più del passato, una cosa della memoria? È difficile fare questo lavoro di aggiornamento, come dicevi anche riguardo ora la musica, quando parlavi di punk o di canzone d'autore? Io credo sia molto difficile, ma penso che non sia sicuramente una stagione finita, perché comunque c'è sempre la volontà di interrogarsi, già questo è un discorso politico, però penso anche che si va molto veloci e quindi i rinnovamenti sono anche a volte come tanti, e a volte mi sembra che sono difficili da carpire, e quindi insomma noi abbiamo provato a fare una fotografia anche politica del tempo che viviamo. Poi ovviamente è un punto di vista. Ah certo, è il vostro. Ma e questa è fotografia nostro. Insomma, come la riassumeresti se dovessi descriverla appunto ai nostri ascoltatori? E qual è la fotografia di questo 2022? Guarda, almeno in questo Bologna, in questa Bologna comunque calda e comunque che sta ricominciando per fortuna a vivere anche dopo tutto la situazione, il disagio che c'è stato negli anni di pandemia e subito adesso che si torna con una guerra, quindi diciamo che le novità non sono mai poi troppo buone, però la questione anche di una città che ha voglia di tornare a vivere, così come i nostri personaggi, quindi i personaggi che poi riconquistano il bar, che ballerine di città che fanno i conti con la loro libertà, ma che poi alla fine riescono anche a sfogarsi in un divertimento collettivo. Perché alla fine già il divertimento, già l'essere insieme a volte è anche una questione anche sovversivo, è anche rivoluzionario, visto le barriere che ci vengono create intorno. Quindi la nostra città non è così triste come sembra, in realtà è fatta di personaggi balordi che la riconquistano, che riconquistano la piazza. Tutto sommato sembra una bestemmia perché ci sono le chitarre elettriche, cioè, mi sembra un disco molto lolliano in realtà, mi sembra che tutto riporti un po' a quella piazza, però è ovviamente un po'... Sì. Può sembrare blasfemo, ma io mi prendo la responsabilità. Bene, bene. A proposito di personaggi che pullano a Bologna, c'è anche un Pinocchio con il frac, che è il titolo della canzone, esatto, che vi proponiamo ora. E dopo c'è anche una collaborazione speciale, non diciamo di chi è, vediamo se i nostri ascoltatori lo capiscono. E dopo ritorniamo qui a Bomba e ne parliamo insieme. Che ballo il valzer lunare che vomita ritmo di house. Io che passo la notte insieme agli amici della comunità house. Io che sono strappato di piombo, di sangue, di hashish, di crack. io che sono un bambino perverso, un Pinocchio. Un Pinocchio col frac. Portami a ballare al Polo Nord. Portami a ubriacare al Polo Nord. Io che ballo il valzer lunare che vomita il ritmo di house. Io che passo la notte insieme agli amici della comunità house. Io che sono strafatto di piombo, di sangue, di acid, di crack. Io che sono un bambino perverso, un Pinocchio. Un Pinocchio col frac. Portami a ballare al Polo Nord. Portami a ubriacare al Polo Nord. Portami a scopare al Polo Nord. Giulia è il ritmo nauseabondo. Ancora un'estate che va a fondo. Viola è il ritmo nauseabondo. Di un cane vagabondo. Sono un Pinocchio col frac. Un Pinocchio col frac. Un Pinocchio col frac. Un Pinocchio col frac. Un Pinocchio col frac. Un Pinocchio col frac. Un Pinocchio col frac. Un Pinocchio col frac. Un Pinocchio col frac. Un Pinocchio col frac. Un Pinocchio col frac. E questo è Pinocchio con il frac, il secondo brano, in questo caso in anteprima, che vi proponiamo dei Manicas. Abbiamo in collegamento telefonico con noi da Bologna Andrea Manica, che ci sta presentando questo disco Posh Punk e questo progetto, i Manicas appunto. Andrea, qui c'è una bella collaborazione in questa canzone. Sì, difficile da capire perché siamo abituati a sentirlo con la chitarra. Lui è uno dei più grandi chitarristi italiani, perché Dandy Bestia è il chitarrista degli Schiantos, quindi un vero musicista e chitarrista che però ha anche una bellissima voce, e quindi questo Pinocchio col frac e questo ritornello in coro, anche la sua voce che canta insieme a noi questo inno, diciamo, quest'altro inno. Tra l'altro, tu con Dandy Bestia avevi già collaborato. Sì, l'altra volta aveva suonato la chitarra, e quindi, diciamo, per non ribissare, visto che comunque lui molto affettuosamente si è anche affezionato al nostro progetto, e per non ribissare questa volta io gli faccio fare sempre delle cose al povero Dandy, lo spingo a fare delle cose che magari non sospetta neanche lui, però gli vengono ovviamente bene. Oppure in tutte e due le canzoni abbiamo creato un videoclip, e lui ovviamente fa la parte del bar, perché è lì dove l'abbiamo incontrato ed è lì ancora dove si incontra. C'è uno degli unici grandi che ancora si incontrano così, proprio al bar, a resistere a un tavolino, e quindi è lì che è lì che è nata la nostra collaborazione, quindi lì riporterà sempre le nostre canzoni, riporteranno sempre a quel bar. Ascolta, almeno quelle che faremo insieme. A proposito di collaborazioni, ce ne sono anche altre, perché insomma la produzione dell'album è stata portata avanti da Emanuele Fusaroli, che ha lavorato con gli Zen Circus, il Teatro degli Orrori, ma poi anche da una figura storica del punk italiano come Glezos. Esatto, questo è stato un album proprio collettivo, e quindi oltre noi tre che ci abbiamo ragionato molto prima di andare in sala di registrazione, quello che volevamo, ai cambiamenti musicali che volevamo fare, poi è stato anche un insieme di persone che hanno messo la loro creatività. Innanzitutto Emanuele Fusaroli all'inizio, soprattutto nella fase di registrazione, che ci ha comunque instradato. Lui comunque con La Tempesta ha lavorato tantissimi album con cui eravamo cresciuti, quindi un po' anche, diciamo, una presenza importante ed ingombrante con la sua creatività, e siamo poi anche caduti bene nelle mani di Glezos, che è un personaggio veramente molto divertente, e lui poi ha scritto anche, ha lavorato tantissimo anche con la musica italiana, sia come autore, tra Nomi e Cognomi di Baccini e tante altre collaborazioni con Zucchero, però è un vero punk, è uno dei pochi che è stato in Italia, un pochi italiani che è stato in quell'età d'oro nel punk londinese, quindi porta ancora tutto quello spirito dentro, e ovviamente per il genere che facevamo, per le persone che siamo, ci ha subito colpito e aiutato tanto nel nostro lavoro. Sì. Quindi insomma collaborazioni ce ne sono per questo Posh Punk, che ricordo uscirà alla metà del mese di giugno, tra un paio di settimane. Uscirà anche il nuovo singolo, che è proprio quello che vi abbiamo appena proposto. Poi so che sarete in giro in tournée durante l'estate, tra la Campania, esatto, la Puglia, insomma fate un po', si riprende un po' con l'attività live finalmente. Abbiamo un po' di concertini, esatto, e siamo molto contenti perché insomma è bello raccontare, ma è bello suonare dal vivo il nostro, cioè, come ti dicevo, siamo un gruppo di amici scalmanati, quindi partiamo proprio wild, non c'è il furgoncino ma c'è la macchina piena di strumenti, quindi alla fine è uguale. Eh sì, quindi insomma godetevi questi concerti, godetevi quest'estate, perché ci sarà tanta voglia anche per presentare un nuovo disco. Dimmi. Il primo per gli amici bolognesi, se ascoltano, tanto so che ci sono vari ascoltatori un po' sparsi per Zibaldone, è qui al Tank, che è un locale in via Emilio Zago, che è un po' diventato il centro della movida bolognese sotto il ponte di Stalingrado. Ci sono un po' di locali rock, e il venerdì 10 giugno saremo lì a suonare, a presentare l'album, quindi una sorta di release party, e quindi chi c'è può venire a trovarci lì e a sentire le canzoni che sentirete dal vivo. Esattamente, Posh Punk. Sentirete qui in radio dal vivo. Ascolta, un po' di Posh Punk. Esattamente, Andrea, noi chiudiamo con un ultimo brano, ci salutiamo con Alla nostra età, mi piacerebbe la presentassi tu ai nostri ascoltatori. Allora, grazie intanto della possibilità di raccontare il nostro album. Noi siamo in Manicas da Bologna, Posh Punk è una canzone da spiaggia post-atomica, era il nostro singolo estivo, e non so se uscirà quest'estate in forma proprio video, ma per noi rimane il singolo dell'album, e quindi vi presento Alla nostra età. Grazie davvero Andrea Manica, i Manicas, Posh Punk è il loro nuovo disco, e la canzone che ci sentiamo ora, come vi ha detto Andrea, è Alla nostra età. Un abbraccio Andrea, in bocca al lupo. Grazie Steven, un abbraccio anche a te. Capaz cedi, sapresti tirare avanti, ma ho deciso, sai, che anche se non vuoi, ne voglio comprare sei, di abiti eleganti, sogni riflessi che decadono, e i nostri troppi se scompaiono, specchi riflessi che troppi me dilagano. Domani non si sa, qualcosa cambierà, la pubblicità dice cose importanti, sottotitoli, ma qui dentro c'è un cuore che batte e non vuole più dirti no, e le parole soltanto quelle, tu dammi solo una bella pelle, dimmi che tutto è possibile, un mondo migliore non c'è, di quello che ho nella testa, di quello che ho nella testa, dimmi che tutto è possibile, posso fidarmi di te e di quello che hai nella testa, di quello che hai nella testa. Mi piace come ti vendi, io sempre ferma, tu tre passi avanti, tra il dire e il fare dei sentimenti, bisogna sempre fare bene i conti, ma qui dentro c'è un fuoco che brucia e fra un po' brucio anch'io, da quando ci sei tu non ci serve più alcun Dio. Di che tutto è possibile, un mondo migliore non c'è. Di quello che ho nella testa, di quello che ho nella testa. Di che tutto è possibile, posso fidarmi di te. E di quello che hai nella testa, di quello che hai nella testa. Oh, oh, oh, sei il mio pane quotidiano. Quello che riesco a sentire, tutto quello che riesco a capire. Dimmi che tutto è possibile, un mondo migliore non c'è. Di quello che ho nella testa, di quello che ho nella testa. Dimmi che tutto è possibile, posso fidarmi di te. E di quello che hai nella testa, di quello che hai nella testa. E questa è Chiara Vidonis, Quello che ho nella testa, una canzone che ci arriva fresca fresca dal Lussemburgo, perché a presentarcela e a proporcela è il nostro caro Berardo Stagliano, che torna dopo un po' di tempo qui a Zibaldone. Berardo, sentieri sonori, Radio Ara, Lussemburgo, lì nel centro nord dell'Europa, bentornato a Zibaldone. Grazie mio caro, sì, centro nord, però per una volta non devo invidiarti troppo il clima, perché da qualche settimana fa una caldazza sconfinata anche da queste parti. Cambio climatico. Eh sì, climate change, poi dicono che non esista. Ad ogni modo, parlando di musica, sì, ti ho voluto proporre questo splendido brano estratto dal nuovo disco di Chiara. Un artista che seguiamo da un bel po' di anni, che abbiamo ospitato per il suo precedente disco ormai 6 anni e mezzo fa, mamma mia come passa il tempo, e che avevamo scoperto grazie al nostro comune amico Ricky Russo, essendo lei una cantante triestina, e sappiamo che Ricky è sempre, ha sempre un sacco di cose da farci scoprire dalle sue parti. È passato appunto un bel po' di tempo dal disco precedente, chiaramente. Insomma, in questi anni, questo ultimo paio d'anni sono stati di pausa un po' per tutta la discografia, e quindi hanno allungato i tempi, ma ne valeva la pena per un disco bello come questo La Fame, che ci fa ritrovare la voce e il talento di scrittura di questa cantautrice molto molto in gamba, però ce la fa ritrovare in un mondo sonoro abbastanza diverso, perché se il suo precedente disco era fatto con una band vera e propria, quindi aveva più i toni del rock e dintorni, in questo caso il disco è prodotto da Karim Kukuru, il batterista di The Zen Circus, che ha lavorato con lei su questo disco e che ci raccontava Chiara, che abbiamo ospitato quando era il 21 maggio per parlarne. Ci raccontava che Karim ha voluto proprio spingerla in territori che le sono meno abituali, e questo le ha dato anche una spinta a scoprire aspetti nuovi della sua musica. Devo dire, un disco veramente particolarmente bello, trovo, che mi faceva piacere proporre ai tuoi ascoltatori. Hai fatto bene, hai fatto molto bene, è una canzone che è piaciuta molto anche a me, andrò a cercarmi a scoprire il disco. Berardo, prima di passare alla tua seconda proposta di questo mese ormai di giugno, perché ci avviamo verso la pausa estiva, ricorda se vuoi ai nostri ascoltatori quando vai in onda a sentire i sonori, perché tra l'altro insomma sei sempre sul pezzo per quanto riguarda la musica d'autore indipendente italiana. Sentieri Sonori va in onda ogni sabato dalle 11.30 alle 13. La scorsa settimana ho avuto il piacere, giusto appunto, di ospitarti. Quindi, caro pubblico di Zibaldone, ci potete trovare o in live streaming su ara.lu o in podcast, e trovate tutti i link ai podcast, nonché un sacco di novità, un post al giorno, leva al medico di turno, sul nostro blog sentierisonori.blogspot.com. Se vi va di, come dire, possibile restare collegati con la nuova musica italiana, quella indipendente, quella non mainstream, può essere un indirizzo utile. Assolutamente. E visto insomma anche il blog, che è sempre molto attivo, vuoi menzionare alcune delle ultime interviste che hai fatto, che hai in programma per le prossime settimane, così magari ai nostri ascoltatori viene voglia di andare a spulciare sul tuo blog e ascoltare i podcast di Sentieri Sonori? Eh beh, ci sono tante belle cose, perché il momento è molto ricco, si sta un po' sbloccando appunto dopo il periodo della pandemia. La settimana scorsa abbiamo ospitato The Dining Rooms, due settimane fa dicevo appunto Chiara Vidonis e con lei Sesto, un altro artista triestino, prima ancora Tenebra, Foia, insomma tante cose interessanti, e inizio a dirvi che giusto domani ospiterò la band della quale stiamo per parlare, ma non solo la ospiterò, ma dedicherò l'intera trasmissione una monografia sugli Africa Unite, che hanno appena pubblicato un nuovo disco che celebra, te lo dicevo a microfoni spenti e ho visto la tua faccia a sentire la cosa, celebrano quest'anno i 40 più 1 anni, l'hanno voluto dire così perché i 40 tondi l'anno scorso non li hanno potuti festeggiare come si deve per ovvi motivi. Già 40 anni gli Africa Unite sulle scene, come vola il tempo, lo dicevi tu prima. Eh sì, hanno fatto uscire il loro nuovo disco in una data non casuale, ovvero sia l'11 maggio, che era l'anniversario della scomparsa di Robert Nesta Marley, e che per loro è un po' anche l'anniversario di nascita, perché fu proprio la scomparsa di Marley a dargli un po' la spinta a creare questa fantastica band che io continuo a definire la reggae band italiana per eccellenza, penso che non ci sia dubbio alcuno, e che con questo nuovo album Non è fortuna tornano in grandissima forma. Erano passati ben 7 anni dal loro ultimo disco normale, passatemi il termine, che era il punto di partenza. Nel frattempo ne hanno fatto uno nel 2019 assieme agli Architorti, l'anno scorso hanno reinciso il loro People Pie, che era uscito in origine nel 91. Questo nuovo disco è splendido, vanno in tante direzioni all'interno del mondo del reggae, che è più variegato di quello che non si pensi, e con un certo numero di ospiti, perché sul brano che stiamo per ascoltare c'è David Hines, che altri non è che il cantante dei gloriosi Steel Pulse, a cui gli Africa sono stati introdotti da Gaudi, produttore e artista italiano trapiantato a Londra da tanti anni, che ne ha realizzato anche una dub version. C'è Brinsley Ford, il cantante degli Aswad, c'è Tonino Carotone, c'è un giovane rapper chiamato Tito Sherpa. Insomma, un disco veramente molto bello. Per scoprire questo disco, ma più in generale per scoprire o riscoprire un po' di questi 40 anni, domattina Sentieri Sonori, monografia Africa Unite. Non ce la si può mica perdere questa, perché davvero... Direi proprio di no. Direi proprio di no. Quindi insomma, sintonizzatevi su Radio Ara, oppure dopo ascoltatevi il podcast, che Berardo ci ha già ricordato come si fa, si trova facilissimamente appunto sulla web di Radio Ara e appunto sul blog di Sentieri Sonori. Berardo, noi ci ritroviamo il mese prossimo, proprio prima di salutarci per le vacanze, non solo per dirci buona estate, insomma, che in spiaggia vada bene, ma anche perché dobbiamo festeggiare 10 anni di collegamenti tra Zibaldone e Sentieri Sonori. Eh sì, è un anniversario bello tondo, mi fa strano, non ti nascondo, pensare che sono già 10 anni, e soprattutto 10 anni che ci colleghiamo e non ci siamo mai incontrati di persona. Questo dovremo assolutamente porre rimedio presto. Dopo un decennio ci vuole, bisogna che tu faccia un salto a Barcellona, via. Quella speriamo appunto che, se il mondo va nella buona direzione, vedremo di farlo. Dai, noi ti aspettiamo qui, ascolta, un abbraccione forte e ti lascio lanciare a te questo brano degli Africa United. Allora, caro pubblico di Zibaldone, un saluto a tutti voi, ci sentiamo fra un mesetto circa, vi lascio con Non è fortuna, la title track del nuovo splendido disco di Africa United. Truths and rights. Scommetterai, l'unico se ci credi accenditi. Si resta qui a scrivere, graffiando vetri e muri. Ci credi o no, ma se ci credi aiutami. Il tempo accelera i ricordi, cronometrandoli nel blu di una ferita sempre aperta. Sfrecciano come te al limite, velocissime lame gelate, non si incontreranno mai. Celebrità, identità, hanno un suono differente. Tranquillità, falsa realtà, non ci attrae, non ci stimola. Scommetterei, lo rifarei, perché non è fortuna. Ci credi o no, ma se ci credi accenditi. E il fuoco che brucia, si resta qui a scrivere, graffiando vetri e muri. Ci credi o no, ma se ci credi aiutami. Siate onesti con voi stessi. Well, are you destined to be who we be? What you wanna be? Be what you wanna be. Are you longing to go? Set you free, set you free. There's a brand new world out there, and you shall discover all's not fair. In love, and war, is it peace that you're looking for? Yeah. Scommetterai, to the left, lo rifarai, to the right, discouraged by your side. Yeah. Ci credi o no? You're looking up, ma se ci credi accenditi. Mindful how you strive. Resta qui a scrivere, graffiando vetri e muri. Ci credi o no? Ma se ci credi aiutami. Mindful how you strive. Insopportabile. Non ho voglia di arrendermi, adattarmi, no mai. Se finisse sarà per decisione, per precisa volontà. Scommetterei, lo rifarei, perché non è fortuna. Ci credi o no, ma se ci credi accenditi. Che brucia, si resta qui a scrivere, graffiando vetri e muri. Ci credi o no, ma se ci credi aiutami. Scommetterei, lo rifarei, perché non è fortuna. Ci credi o no, ma se ci credi accenditi. Si resta qui a scrivere, graffiando vetri e muri. Ci credi o no, ma se ci credi aiutami. E fuoco che brucia, e fuoco che brucia, e fuoco che brucia, e fuoco che brucia. Sporcizia, lattine, carte gettate ovunque accanto ai 5 Stelle. Zelensky ammette situazione difficile. Se con Putin parla Di Maio. L'europarlamentare Gian Russo, interpretato da uno straordinario Pier Francesco Favino, sbatte la porta e colpisce l'export, dimostrando che non era imbattibile. La ripresa del Made in Italy non si comanda e non può farlo neanche il governo. Ogni giorno in Italia spariscono in media 200 obiettivi del PNRR, ma 2 su 3 vengono ritrovati, dice Draghi. Straordinario a Pompei, il primo bonus psicologico della storia disponibile per un abitante vittima dell'eruzione 2000 anni fa. Boris Johnson sempre più nei guai per la notte intera di canti e balli nel rione sanità di Napoli, senza poi fare nulla per il diffondersi della peste suina. Erdogan torna a proporsi come mediatore per scongiurare la crisi alimentare facendo incetta di biscotti. Cerchiamo un luogo dove vivere in pace. Salvini annuncia un possibile viaggio a Tarquinia per la festa di Sant'Ambrogio ed è subito polemica. Attacchi da Letta e Leclerc, stizzito per un pasticcio di strategia militare. Giorgia Meloni, un errore aprire crepe nella posizione del viso. La replica del leader leghista è un coro di insulti dei tifosi del Milan. Di Maio con Putin non si comanda e non può farlo neanche il cervello. 2 mesi fa Putin, raggirato da una 55enne di Pistoia che con la complicità dei suoi familiari era riuscita a farsi consegnare una macchina del caffè con comando vocale della Transnistria, in una chat aveva preannunciato le sue intenzioni a una sconosciuta che aveva previsto la fine del mondo russo. Beh, sono tornate, come avete sentito, anche le ultimissime. Banzo, devo dire la verità, insomma, io comincerei subito dall'ultima news, perché ecco, Putin raggirato da una signora di Pistoia, sembrerebbe. Beh, sì, è una cosa molto bella, forse era parente di Licio Gelli, non lo so. Però Steven, non ti piacerebbe avere una macchina di caffè con comando vocale della Transnistria soprattutto? Sì, non so in che lingua capirà le direttive, ecco. No, ma proprio la curiosità di vedere questo oggetto così bizzarro. Comunque sono delle ultimissime piene di Putin fino all'orlo e piene anche abbastanza un po' di rimbalzo di Di Maio, sì, che cerca di dialogare con Putin, però insomma. Ma è su Favino Giarrusso cosa diciamo? Dopo aver interpretato Craxi, Favino insomma si lancia anche con Giarrusso e Buscetta, quindi voglio dire, erano ruoli di preparazione, ecco. Questa è veramente la sfida suprema per lui. Io peraltro non ho neanche presente che faccia abbia Giarrusso in questo momento, quindi per dirti, ecco, in quanta cognizione di causa sto parlando, ma aspettiamo l'uscita del film, perché Favino fuori di battuta è bravissimo, bravo e bravo, ecco. Ascolta, Boris Johnson da Downing Street insomma si diletta in feste sguaiate anche al rione sanità, esatto, e poi c'è questa peste suina, ma lui è lì a ballare. Poi mi sembra di capire, la peste suina non è a Napoli per fortuna dei napoletani, ecco, quindi Boris Johnson giustamente stava pensando ad altro. Però io chiuderei con Erdogan che fa incetta di biscotti, perché è un'immagine bellissima, ecco, senza commentarla. Andiamo avanti perché il tempo stringe, ci mancano una quindicina di minuti, abbiamo ancora alcuni brani del nostro omaggio Vangelis e l'Italia e ve ne proponiamo uno subito che, come sentirete, non è cantato in italiano. Ich hab keine Angst. Ich weiß mich zu wehren, ich lass mir mein Ich nicht so leicht versehren. Ich hab keine Angst, mir nicht treu zu bleiben, nur das, was ich will, werd ich unterschreiben. Ich hab keine Angst, mich kriegt niemand klein. Stellt sich ein Problem, stell ich mich drauf ein. Ich hab keine Angst, ich hab keine Angst. Das sag ich so lang, so lang, bis ich's glaube. Ich hab keine Angst, keine Angst vor Krisen. Hab ich nicht grad dann immer Mut bewiesen. ich hab keine Angst. Mich kann nichts erschrecken. Man muss nur den Feind früh genug entdecken. Ich hab keine Angst. La voce bellissima di Milva, che purtroppo ci ha lasciato poco più di un anno fa, praticamente molto negli stessi giorni, quasi le stesse settimane di Battiato. Ich hab keine Angst, Banzo, tradotto in italiano? Io non ho paura. Bravissimo. Disco del 1981, un disco di Milva realizzato in Germania, come avete potuto immaginare, dedicato a Vangelis. Il brano, che era uno strumentale a cui viene aggiunto un testo di Thomas Voitkevich, sarà pubblicato poi due anni dopo, nell'83, in Italia, con il titolo Dicono di me, quindi un titolo diverso. Ma Milva, Banzo, collaborerà ancora con Vangelis. Vangelis era tentacolare, io sì, è vero, è vero. La quantità, veramente, quest'uomo, non so, componeva musica anche mentre dormiva, però tornando un attimo seri, ecco, devo dire, sai che effettivamente ascoltando questo brano non voglio dire che la voce sia di troppo, no, assolutamente, è stato adattato bene, poi l'interpretazione di Milva non ha bisogno di... ecco, di essere giustificata, è straordinaria, però sai che ascoltando il brano è legittimo pensare che fosse uno strumentale, aveva da un po' l'idea, quell'intelaiatura che poteva reggersi anche da sola. Ecco. Comunque Milva collaborerà con Vangelis per un intero album, poi nel 1986, 5 anni dopo la canzone che ci siamo appena ascoltati. Noi andiamo però all'87 perché esce in Italia una canzone di una cantante greca che canta in italiano. Parliamo di Nana Mouskouri, il disco era Con tutto il cuore, la canzone Ti ho perso, ossia Missing, ovvero il tema musicale del film di Costa Gavras con le musiche di Vangelis, di cui abbiamo parlato la scorsa settimana, di qualche anno prima. Nana Mouskouri lo trasforma in una canzone d'amore e poi lo incide questa canzone anche in italiano con un testo di Alberto Salerno, che aveva, insomma, non ha bisogno di presentazioni, di cose ne ha fatte molte. Ti ho perso, Nana Mouskouri canta in italiano questa canzone, la musica è ovviamente di Vangelis, dal film Missing. Ti ho perso, non so più dove stai viaggiando, né dove vai. Ti ho perso, non so più come mai mi arrendo agli occhi tuoi. Tempesta in fondo al cuore, e poi malinconia, non dirmi che questo è amore, non dirlo mai più. Ti ho perso, lo so perché sei ormai lontano, lo so perché. Ti ho perso, così ti lascio già la mano e un po' di me mi chiudo. Nana Mouskouri, Ti ho perso, Banzo, insomma qui lo troviamo in tutte le salse Vangelis, eh? Beh, a parte la battuta di prima sullo staccanovismo, è comunque interessante notare che tutte queste canzoni hanno una storia dietro. C'è una serie di intrecci, di incroci, di collaborazioni, di rifacimenti. È veramente anche interessante ricostruire un po' la genealogia di questi brani. Eh sì, e adesso ne troviamo un altro che conoscerete sicuramente. It's 5 o'clock and I walk through the empty streets, thoughts fill my head, but then still no one speaks to me. My mind takes me back to the years that have passed me by. it is so hard to believe that it's me that I see in the window pane. It is so hard to believe that all this is the way that it has to be. It's 5 o'clock and I walk through the empty streets. The night is my friend, and in him I find sympathy. And so I go back to the years that have passed me by. So hard to believe that all this is the way that it has to be. It's 5 o'clock and I walk through the empty streets. The night is my friend, and in him I find sympathy. He gives me day, gives me hope and a little dream too. Ma che bella che è questa versione, davvero. Franco Battiato, ovviamente, Banzo, da un disco Fleurs 2 del 2008, che era in realtà il terzo capitolo della trilogia di Battiato, il suo tributo alla musica che lo aveva accompagnato tra gli anni 50 e 70. E qui ovviamente la canzone è quella con cui avevamo aperto la puntata precedente di Zibaldone, perché era It's 5 O'Clock, canzone, il primo grande successo degli Aphrodite's Child, che vedevano insieme a Demi Rousseau anche Vangelis. Beh, Steven, hai detto una versione molto bella, anche se la versione di la pronuncia di Battiato è un po' legnosetta, questo va detto, però effettivamente la canzone già di partenza è ottima e comunque ne dà una resa affascinante. Poi insomma si sa che qui a Zibaldone siamo un po' un roccaforte battiatiana, quindi non rincariamo la dose, ecco. Eh sì, e se vi ricordate, se avete ascoltato la puntata la settimana scorsa, chiudevamo nel primo maggio, così diciamo, internazionale a Vangelis con un frammento della colonna sonora di Blade Runner, mitico film di Ridley Scott, con una colonna sonora fantastica di Vangelis, era l'inizio degli anni Ottanta. Bene, quest'oggi chiudiamo con un'altra versione della colonna sonora di Blade Runner, ossia il brano è End Titles, ossia i titoli di chiusura del film, nella versione dei Blue Beaters, nel disco Everybody Knows, che appunto rivisitano in chiave rocksteady il brano di Vangelis. Si tratta dei Blue Beaters, post uscita di Giuliano Palma dalla band, la prima prova discografica, Everybody Knows, nel 2015, appunto, dei Blue Beaters senza Giuliano Palma. Non male come conclusione, Banzo, direi. Beh sì, effettivamente tutta la puntata è stata ad altissimi livelli, quindi potevamo chiuderla solo in modo altrettanto degno. Ecco, allora noi con questo omaggio a Vangelis e l'Italia, quest'ultimo brano End Titles, ci salutiamo, ci ritroviamo venerdì prossimo per un'altra puntata di Zibaldone. Banzo, grazie di essere stato con noi. Grazie a te, Steven, a venerdì prossimo. E come era solito dire il primo sindaco socialista di Madrid, Enrique Tierno Galván, primo sindaco dopo la fine del franchismo, alle 19:55-56, tutti i venerdì diceva... Appunto, parlavamo di questa puntata. Ecco, questa puntata è stata... Aspetta che... Direi, com'è stata questa puntata? È stata potente! Eccolo qui, bravo Banzo, buon venerdì sera. Fate l'amore con il sapore. End Titles, Blue Beaters. E ovviamente Vangelis.